Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco. Non ti trucchi e sei più bella, le mani stanche e sei più bella, con le ginocchia sotto il mento, fuori piove a dirotto, qualcosa dentro ti si è rotto e sei più bella. Sopra pensiero tutto si ferma, ti vesti in fretta e sei più bella, e dentro hai una confusione, hai messo tutto in discussione, sorridi e non ti importa niente, niente. Passano inverni e sei più bella, e finalmente ti lasci andare, apri le braccia, ti rivedrai dentro una foto, perdonerai il tempo passato e finalmente ammetterai che sei più bella. Quando sei davvero tu, e sei più bella quando non ci pensi più. Grande Paola, Paola Turci, 10-8 minuti, era Fatti bella per te. Due come noi, due come noi, due come noi, due come noi. Su Radio Monte Carlo c'è una bella novità, Max Veregoni e Rosaria Arena. Due come noi, due come noi, due come noi, due come noi. Due come noi. Buongiorno Rosaria. Buongiorno Max, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ho ripreso a respirare da circa 2 secondi perché sono stata in apnea da stamattina. È tutto a posto, sì. È tutto a posto, sono un po' emozionata perché insomma è una nuova avventura che parte insieme. È che comincia sulle frequenze di Radio Monte Carlo, ho detto comincia ma sono un po' raffreddato, va bene così. 9 minuti dopo le 10 del mattino, allora comincia questa nostra nuova avventura, sono molto contento, benvenuta su Radio Monte Carlo. Grazie Max, non avevo dubbi sulla tua accoglienza, volevo approfittare per ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto lì in bocca al lupo questa mattina, in maniera particolare il mio amico Mario, che è un cervello in fuga in Austria, che per rassicurarmi mi ha scritto: ti ricordi ancora come si fa? Grazie, con amici come voi non ho bisogno di amici. Questo non si dimentica mai, come cominciare un appuntamento come questo che ci vedrà sino a mezzogiorno in vostra compagnia. Ritroveremo sulla nostra strada Franz Bottré, direttore di Arbiter, e soprattutto avremo musica da ascoltare. Beh, musica di gran classe. Come ad esempio Beyoncé, e l'abbiamo scelto diritto di ascoltare con voi. Questo che è un grande successo, ma del resto la sua è una carriera costellata di successi. Pazzesca, una dea autentica, una regina, e come tale l'ascoltiamo su Radio Monte Carlo. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Monte Carlo. Show me what it means to be yours, what it means to be more, more, what it means to be more. Show me what a difference you make, what a word that you say now could mean when it's over. And it comes time for change, 'cause I'm gonna miss you. I'm gonna miss you when you're gone. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you when you're gone. I'm gonna miss you when you're gone.

La musica di gran classe di Radio Monte Carlo è La Mattina con Max Veneguoni e Rosaria Arena. Buon lunedì 13. Lo sai che cominciamo in una data storica? Hai visto quante ricorrenze? Ho ascoltato anche gli amici del mattino che ne hanno ricordata qualcuna. Beh, forse la più importante è nel 2013 l'elezione di Papa Bergoglio. Esatto, l'arrivo di Francesco, perché così lo chiamiamo. Una volta ho scritto Francesco su Facebook, però ho detto, però pare irriguardoso chiamare il Papa Francesco. Francesco si chiama, lui piace questa cosa, noi piace, no? Fare ha così. Scelto un nome tra l'altro pazzesco. Il giorno in cui fu eletto, io a Roma abito a poca distanza da San Pietro, ero a casa, stavo lavando i piatti e mio marito fa: fumata bianca, andiamo, abbiamo corso, e tutta Roma correva verso il Vaticano. Siamo arrivati lì quando hanno annunciato che il nuovo Papa sarebbe stato Francesco. Un'emozione pazzesca per questo nome così significativo, insomma, San Francesco. È vero, noi stavamo seguendo e tutti abbiamo seguito l'elezione tra le fumate nere sino alla fumata bianca. Io, tanto per cambiare, quando ci fu fumata bianca stavo bevendo un prosecco, ma questa vabbè, già brindavi, diciamo, alla nuova avventura. Era tardo pomeriggio e anch'io mi ricordo. Sì, erano tipo le 7 di sera. Corsi a casa anch'io a vedere che questo nuovo pontefice, che tra l'altro tra pochi giorni sarà a Milano anche in visita. Naturalmente c'è questa attesa per la messa che lui terrà al Parco di Monza dalle 3 del pomeriggio. È attesa una moltitudine di fedeli. Milano si sta preparando. Ora, ecco, io spero di non essere stata irrispettosa nel paragonare il nostro inizio 13 marzo al suo, perché insomma i percorsi sono decisamente diversi. Beh, c'è una buona linea di demarcazione che noi abbiamo rispettato. Ora mancano 7 minuti su Radio Monte Carlo alle 10:30. Radio Monte Carlo. Grande musica. Quando penso a come alla fine mi hai ridotto tu, non capisco dove mi ci avresti sì portato tu. Quando penso a come mi hai preso in giro, però non capisco come sia difficile sbagliare più. Io no, io no, io no, io non ti lascerò mai. Io no, io no, sai, te. Ed aspettavo come un cane quando non c'è più. Non c'è più il padrone contro il vetro per guardare giù, e mi chiedevo come avrei vissuto se tu, e se quel magone mi sarebbe mai andato giù. Io no, io no, io no, io non ti dimenticherò. Io no, io no, vedrai che. Io no, vedrai che. sono 10.32, due come noi, Max Allegroni, Rosaria Renna. Abbiamo oggi sentito... ti sei vestito un po' come il toro? Oggi mi sono vestito così perché io vado a soggetto, non sono mai, non essendo una persona normale, non riesco ad avere, non riesco a pacificarmi. Senti, il fine settimana che ci siamo lasciati alle spalle è stato anche il fine settimana del mal di schiena presunto di Francesco Totti, che non ha voluto entrare nella partita. Il gran rifiuto. Comunque, che la gente ne pensi, ha fatto benissimo dal mio punto di vista. Perché? Perché in ogni caso a volte lo si vuole gettare nella mischia in questo modo. Un po' verso la fine. Ha detto no, mal di schiena. Non posso entrare, però ha ricevuto un grandissimo apprezzamento da Karim Abdul-Jabbar. Quando ha detto un grandissimo. Sì, c'era Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar che svettava sui giocatori della Roma, insomma è nato a Trigoria, ha voluto conoscere Francesco Totti, ha ammesso di non seguire molto il calcio, di non averlo mai visto giocare, ma di aver saputo insomma della sua passione, della grandezza della sua carriera. Secondo me è proprio un incubo per Spalletti, Francesco se lo sogna di notte probabilmente. Credo che sia un personaggio difficile da gestire per tutti gli allenatori, perché è la bandiera della Roma, i tifosi lo amano, lo adorano, quindi è difficile in questo momento della sua carriera. Cosa ha, 40 anni? Insomma. Sì, lui li porta benissimo. Salutiamo Francesco Totti. Sicuramente questa è, meglio di noi. Questa è Radio Monte Carlo e adesso Dance. In a limbo, half hypnotized. Each time I let you stay the night, stay the night. Up in the morning, tangled in sheets. We play the moment on repeat, on repeat. When you're standing there in your underwear and my t-shirt from the night before, with your messed up hair and your feet still bare. Time we meet, I know you're coming home with me, home with me. Sweat like a sauna, break out the ice. I know you're gonna stay the night, stay the night. When you're standing there in your underwear and my t-shirt from the night before, with your man. I just RMC. Su Radio Monte Carlo, Love My Life. Sai che è uno degli hashtag che uso di più su Instagram, Twitter e Facebook? Adesso parlo di qualcosa di, che tu adori proprio, tu passi la vita sui social, vero? Ah, guarda, sì, sì, però sì, è vero. Come, no, lo tu sai? Sei come su sai Facebook. Questa cosa? Sei su Facebook perché ti seguo e mi piace sempre quello che scrivi. Qualche minuto al giorno sto su Facebook. Mi diverto molto perché poi l'utilizzo dei social in questo senso è buono. Sì, infatti ti vedo ancora sano, nonostante tu abbia fatto outing dicendo che non sei normale, ti vedo sorridente, per questo, perché invece per quelli malati come me che hanno account praticamente ovunque, mi sono rifiutata, ce l'ho ma non lo uso, giusto su Snapchat, la vita è diventata un lavoro sui social praticamente. È vero, è vero. A 10:41 abbiamo sentito Robbie Williams, volevo ricordarvi che il prossimo luglio ci viene a trovare, nel senso che viene a fare musica in Italia, e incredibilmente sarà a Verona dove c'è lo stadio del Bentegodi, è vero, e poi Lucca e poi gioca o canta? Sì. Lui gioca anche a pallone, uno sì. Anche lui non è veramente a posto, per cui siamo di buona compagnia, eh? È un artista. Ma del resto chi è che non lo è? Radio Monte Carlo. Solo musica di gran classe. With the birds of shade, it's a lonely view. Soltanto e saranno le 11 del mattino, erano i Red Hot Chili Peppers in Due Come Noi. Da oggi su Radio Monte Carlo con Max Venegoni e Rosaria Renna. Lo sai che i Red Hot Chili Peppers saranno gli ospiti di punta all'ippodromo di San Siro nell'edizione 2017 del Milano Summer Festival tra giugno e luglio? Loro mi fanno un po' paura, però va bene così. Ma come? Da lontano, no, l'ippodromo lontano. Tanti bravi ragazzi, assolutamente. Arriveranno dalla California il 21 luglio, ci sono insomma tanti appuntamenti, per esempio The Chainsmokers, questo duo particolarmente amato negli ultimi tempi, Evanescence, Major Lazer, Daddy Yankee, tantissimi. Il 21 luglio per l'appunto i Red Hot Chili Peppers, appena ascoltati su Radio Monte Carlo. Sarà un'altra grandissima estate di musica. Andiamo e torniamo a queste ultime giornate per un pezzo che ci è piaciuto da subito, direi. Lui poi piace a tutte, nel senso che si fidanza sempre con le più belle in assoluto. Credo in questo momento, dopo Bella Hadid, una delle modelle più amate, sia con Selena Gomez. I feel it coming, Weekend Daft Punk. Tell me what you really like. Maybe I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. Touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high. Faded off this touch. You don't need a lonely night. So baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch.

feel it's time. You know she'd tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. I'm gonna fight about this, okay? Oh, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe it. Assoluti, questi Michael Jackson e Paul McCartney, un po' come Max e Rosaria questa mattina su Radio Monte Carlo, questi paragoni arditi. Sai che c'è questo fenomeno Sergio, si dice, Sergio Cortez? Hola. Questo ragazzo pazzesco che è la copia vivente di Michael Jackson, sta mettendo a ferro e fuoco il mondo con il suo tribute show, è stato a Torino, sarà il 10 maggio a Milano al Teatro Nazionale Checkbank, pare che sia uno spettacolo imperdibile. 11:08 minuti, queste le frequenze di Radio Monte Carlo, due come noi, e ritroveremo tra poco il direttore di Arbiter Franz Botré. Ci rilasciamo un po' al discorso musicale perché grazie a Dio c'è stato il grande ritorno del vinile. Tu ce l'hai Thriller in vinile? Che mancheria. Io c'ho tutto quanto, basta che tu prenda una mezz'oretta nel pomeriggio di domani e passi nel mio garage e io ti farò. Va bene, tutti i vinili di Venegoni. Ci vedrai cosa succede. Ma no, scherzo, il vinile, di questo parleremo, di questa persona, di questo Giuseppe, questo signore, Giuseppe Pinto, che ha creato nel suo garage, ecco perché ne parlavo, un riproduttore di vinili innovativo, e quindi cercheremo di saperne di più proprio dal nostro amico Franz Botré. Adesso Jason Kay. Much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Yeah.

don't say the meanest things. Yeah, I've been called a dick, I've been called so many things. I know I've done some shit that I admit deserves it, but that don't mean it doesn't sting. Saw you standing outside a bar. Would've said you're beautiful, but I used that line before. And I had my share of shallow nights, 'cause I was scared to get it right. So I was hanging with whoever, but baby, then you. You love, love, love me, love me better. You love, love, love me, love me better. There's been times I gave myself to someone else, to someone lesser than you. Love, love, love me, love me better. Love me better. When I met you, I was treading water. Baby, I know you know I got an eye that wanders. But right now in this car that we're driving to your sister's, all I'm looking for is something that's forever. Baby, then you. You love, love, love me, love me better. You love, love, love me, love me better. There have been people that I've loved before, but they were something less. 'Cause you love, love, love me. Say the meanest things. Yeah, but truth be told, I don't care what they think. I got someone who is lying in my bed right next to me. Yeah, she love, love, loves me. Love, love, loves me. Myself to someone else, to someone lesser than you. Love, love, love me, love me better. Love me better, James Blunt. Questa è Radio Monte Carlo, grazie per il vostro affetto questa mattina, lo state esprimendo sia con WhatsApp ed SMS al 342 41 41 762, poi insomma ci trovate su Facebook come Radio Monte Carlo, su Twitter @RMC_official, quanto mi piace dire underscore, l'ho notato. A quest'ora della mattina, oppure numero verde 800 04 64 64. Come va, professore Max? Va tutto bene? Va bene, okay. Sì, molto interessante. Allora, cosa succede? Che come ogni lunedì noi siamo pronti per questo viaggio attraverso le pagine patinate di un mensile meraviglioso quale Arbiter è, e per questo siamo al telefono con il suo direttore, il nostro buon amico, che è Franz Botré. Buongiorno Franz. Buongiorno Franz. Dov'è Franz Botré? Con lui ci dobbiamo occupare di vinile, come del resto annunciato prima, del grande ritorno del vinile, e Arbiter ci racconterà attraverso il suo direttore il caso di questo signore Giuseppe Pinto, che ha creato un riproduttore di vinile. Il tempo di ripristinare la linea e poi saremo in diretta con lui. Radio Monte Carlo. Great music. Done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be can be together, baby. You can make my life worthwhile. I can make you start to smile. When it's through, fate would twist the both of you. Minuti dopo le 11, due come noi su Radio Monte Carlo, c'erano anche To Be With You, Mr. Big. Tre minuti alle 11:30. Franz Botré, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ecco, dicevamo prima le patinate pagine di Arbiter, ospiti di Radio Monte Carlo, ogni lunedì mattina in apertura di settimana. Ci occupiamo di vinile, Franz. Sì, ci occupiamo soprattutto di una risposta italiana, fatta alla nostra maniera, per proprio una risposta ai guru americani che viaggiano sempre in t-shirt e felpa, oppure a tutti questi ragazzini d'oro cinesi della New Economy che sfidano i mercati globali. Ma anche noi non siamo indietro. E vedi cosa è successo a Napoli. Giuseppe Pinto, trentenne napoletano, che è un tecnico del suono, è un traghettatore, diciamo, di mare dell'era digitale, un guru che anche noi abbiamo in Italia. E lui ha fatto una riflessione molto importante per unire un ponte che unisca l'analogico al digitale, tradurre come un'innovazione il vinile in il file FLAC, che loro la chiama ON, acronimo di Old and News, e ha creato che cosa? Ha creato veramente un gioiello, un timeless di cura artigianale che ricerca la tecnologia in totale, un giradischi plug and play in grado di gestire tutte le sorgenti analogiche e al digitale, si collega al computer con un cavo USB, i dispositivi portati attraverso il ricevitore audio, cioè un giradischi per i nostri vinili. Perché? Perché il vinile, come sappiamo benissimo e come noi amiamo, è tornato alla ribalta, e quindi lui è riuscito a mettere insieme sia il vinile e sia anche tutto il digitale, creando un giradischi con valvole fantastico, uno di quei grandi racconti italiani che nascono in sottoscala, come in sottoscala ricordiamo che sono nate tante altre idee, perché è un punto di ritrovo di giovani che si trovano, si scambiano, sentono una buona musica, si bevono magari una birra e ascoltano il loro vinile. Da lì è partita l'idea di questo Giuseppe Pinto, che diciamo che è un nipote d'arte, perché ha preso tutto dal nonno, che era veramente per passione, ha trasmesso la ricerca e l'innovazione nel digitale. Ma voi in pratica avete indagato su di lui per avere tutte queste informazioni? Sì, sì. Beh, noi sai che entriamo sempre, spacchiamo capelli in due, in quattro, in cinque, no? Ma poi è una storia chiaramente tipica dell'uomo, no? Che cerca sempre per le passioni, magari mai fiorite, che mai fioriranno in un garage, piuttosto che sottoscala, di diventare, di ricercare, di voler nascere e sviluppare idee in laboratori fai da te. Non è un caso, voglio dire, che se tu però prendi, guardi, vedi, lo stesso Nero Alessandri con tecnologie fece lo stesso, ma senza poi andare più oltre maniche, quindi vedere come è nata la Lotus, vedere come è nato Microsoft, sì, sì, piuttosto che. Ma può avere anche un'applicazione commerciale o rimane una? Rimane un'applicazione commerciale, perché il Club de Teatro è avvenuto proprio l'estate scorsa al CES, che è il Consumer Electronic Show di Las Vegas, dove i signori di Macintosh Group si sono avvicinati a lui e chiaramente gli hanno fatto, chiaramente l'hanno acquisito per una startup e l'hanno preso tramite la partecipata italiana Sonus Faber, e quindi questo giro rischi diventa una realtà, una bella realtà italiana made in Italy.

tried so hard to be attentive to all you wanted, always supportive, always patient. What did I do wrong? Been wandering for days and hours. It's clear it isn't here where you belong. The best, I hope you get along. You don't even know the meaning of the words. I'm sorry. You said you would love me until you die, and as far as I know, you're still mine, baby. And you don't even know the meaning of the words. I'm sorry. I'm starting to believe it should be illegal to deceive a woman's heart. Got found three penguins and Hey Sting, voi non siete fortunati perché io l'ho avuto nella versione Max Venegoni qui nel fuori onda. Solo Radio nel Monte One Fine Carlo. Day, però, cantato solo, canto spesso, mi piace molto cantare. È bello, vuol dire che hai il cuore allegro, che sei felice, questo è tutto ciò è molto bello. Mio amico dice che tengo la capa fresca. La capa fresca, ma sai che fresca. Bello avere la capa fresca, anche quando non si hanno più 12 anni. Beh, insomma, si cerca sulla base di quello che è il nostro quotidiano, di viverlo al meglio che possiamo. Apprezzare un po' quelle piccole e grandi fortune che si hanno. Per esempio quella di avere Rosalia Arena che ti dice cosa fare oggi pomeriggio. Ma certo. Te lo sei appuntato guardare il video, di scrivilo, di Scarlett Johansson che fa la parodia di Ivanka Trump, la figlia preferita di Donald. Che dura poco però. Sì, dai, è una roba breve, tipo uno spot pubblicitario di un profumo, e c'è lei che ha queste movenze proprio tipiche di Ivanka, che è diventato un personaggio particolarmente sotto i riflettori, un po' per il lavoro del padre, un po' perché è splendida e un po' perché, diciamo, fa il ruolo da first lady più di Melania probabilmente. Va bene, lo farò, ho diverse cose da stirare tra l'altro oggi, per cui mentre stiro guarderò questo bellissimo video. Che bella video. Immagine. Che bella immagine. RMC Trilogy. Dedicated to Bryan Adams. Still feels like a first night together. Trilogy. Tre canzoni per Bryan Adams. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. You love a woman, you tell her that she's really wanted. You love a woman, you tell her that she's the one. She needs somebody, you tell her that it's gonna last forever. So tell me, have you ever really, really, really ever loved a woman? Yeah. Just tell me, have you ever really, really, really ever loved a woman? Just tell me, have you ever really, really, really ever loved a woman? Sfera così da un film, tra peraltro Don Juan de Marco, ti ricordi? Con Antonio Banderas c'era, se non sbaglio. Juan de Marco, maestro, Johnny Depp. Maestro, forse era Johnny Depp. Johnny Depp, sì, beh, Johnny adesso Depp. Sono mica Gianluigi Rondi, pace anima sua, voglio dire. La trilogy dedicata a Bryan Adams dal Canada in Due come noi. Che ha tra l'altro una seconda vita da fotografo, ma ogni tanto ritorna anche live, lo farà prossimamente nel nostro paese a novembre a una serie di date da Padova, Bolzano, passando per Milano, Torino, Roma e Rimini. Peraltro quella della fotografia è stato un po' un vezzo di moltissimi. Ricordo Gina Lollobrigida, che grande fotografa, realizzò dei reportage molto interessanti. Anche molte modelle poi si riciclano come fotografe, anche perché insomma hanno appreso tutto da quest'altra parte dell'obiettivo e poi mettono a frutto quello che hanno imparato quando magari diciamo l'età avanza. Poi molti hanno l'hobby della fotografia, il fascino rimane quello delle macchine con pellicola, devo dire la verità. La tecnologia ha velocizzato le cose alla grande, però anche quando si assiste a un set fotografico, si va su un set, a uno stage, è bello vedere lavorare i fotografi. Quelli che lo sanno fare veramente, noi ci illudiamo, perché sai, con per esempio Instagram un po' tutti fotografiamo quello che ci accade, la nostra realtà, e ci sentiamo fotografi, però poi bisogna avere la capacità di capire insomma che c'è una differenza. Ormai fotografiamo e postiamo qualsiasi cosa. Qualunque cosa, dai piatti ai gatti, beh, il mio Teo è un grande, grande protagonista di Instagram. Allora, a proposito di grandi protagonisti, qui parliamo di musica. Tiziano Ferro e Carmen Consoli, Rosaria. Stavamo ricordando quel momento pazzesco che li ha visti i protagonisti sul palco dell'Ariston a Sanremo, e sui social era tutto un poverini quelli che si esibiranno dopo questi due grandi della musica italiana. E allora, un testo che è una meraviglia. Tiziano Ferro e Carmen Consoli su Radio Monte Carlo, ecco. Se questa città non dorme, allora siamo in due. Per non farti scappare, chiusi la porta e consegnai la chiave a te. Adesso sono certa della differenza tra prossimità e vicinanza. Il modo in cui ti muovi in una tenda in questo mio deserto. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto. Il cuore con entrambe le mani, ci vuole coraggio e occhi bellati su un cielo girato di spalle. La pazienza è casa nostra, il contatto è il tuo conforto. A che fare con me, qualcosa che ha a che fare con me.